Benvenuti al nostro confronto di idee. Oggi la nostra analisi si concentra su una delle figure più enigmatiche e direi discusse di Havenwood, l'adattatrice, nome in codice Eve. La sua abilità è tanto semplice da descrivere quanto, complessa nelle sue implicazioni. Con un semplice tocco può replicare alla perfezione i poteri di un altro eroe. Il problema? L'effetto dura solo 10 minuti. E la domanda che inevitabilmente sorge è proprio questa. Questa capacità la rende la risorsa tattica definitiva, una specie di coltellino svizzero umano in grado di affrontare ogni minaccia, o è piuttosto una maledizione, una condizione che la condanna a non avere mai un'identità propria, a essere un'eco passeggera degli altri? Esatto. E io personalmente sono convinto che la sua versatilità sia un dono strategico senza precedenti, una risorsa che la rende potenzialmente l'eroina più potente di tutte. Io, al contrario, vedo in questa natura così effimera, così derivata, un handicap psicologico e operativo enorme, che la rende fondamentalmente incompleta e, in un certo senso, tragica. Partiamo da un presupposto che credo sia innegabile. La forza dell'adattatrice risiede nella sua illimitata flessibilità. Non è definita da un singolo potere, ma dal potenziale di possederli tutti. Pensaci un attimo. Di fronte a una minaccia, lei diventa letteralmente la soluzione. C'è un edificio in fiamme con persone intrappolate. Un tocco all'incudine umana e acquisisce una forza sufficiente a sfondare i muri. C'è bisogno di raccogliere informazioni senza essere scoperti. Un contatto con la regina mentale e può leggere i pensieri delle guardie. È una soluzione vivente, dinamica, a problemi che sono sempre diversi. La sua biografia accenna al fatto che la sua personalità cambia leggermente a seconda dei poteri che assorbe. Molti lo vedono come un difetto, una perdita di sé. Io invece, ecco, ci vedo una forma quasi trascendente di empatia. È un modo per capire i suoi alleati a un livello che nessun altro può raggiungere. E questo non è solo un vantaggio emotivo, è un vantaggio strategico che cementa la squadra. Il suo è un dono che le dà una prospettiva e un'utilità che nessun altro possiede. La prospettiva che offri è affascinante, ma secondo me è eccessivamente ottimistica. Io credo che il suo potere sia, di fatto, una prigione dorata. La priva di un'identità stabile e la rende perennemente dipendente dagli altri. Non è un'eroina a pieno titolo, è un riflesso temporaneo di chi le sta accanto. La sua stessa biografia, non dimentichiamolo, conferma che soffre di una piccola crisi d'identità. Ora, piccola crisi mi sembra un eufemismo per descrivere una condizione di profonda instabilità psicologica. Come può forgiare un proprio carattere, un proprio codice morale, se la sua stessa essenza è costantemente in prestito, in affitto per 10 minuti? E poi c'è proprio quel limite, i 10 minuti. Non è un dettaglio, è il difetto fondamentale del suo potere. La rende inaffidabile. Pensa a uno scontro prolungato. Pensa se stesse volando a 300 metri d'altezza con i poteri di Capitan Cometa e di colpo tornasse a essere una persona normale. È un pericolo costante. E il fatto che indossi sempre dei guanti la dice lunga. Non è un vezzo stilistico. È la prova che lei stessa percepisce il suo potere come un rischio da contenere, non una risorsa da usare liberamente. La sua celebrata versatilità, per me, è un'illusione che maschera una fondamentale e pericolosa mancanza di sostanza. Capisco il punto sull'affidabilità, ma non credi che quel limite di 10 minuti la costringa a un livello di pianificazione tattica superiore? Non può permettersi di sprecare tempo. Deve essere precisa, chirurgica. Questo per me è un punto di forza e ci porta direttamente alla sua efficacia strategica. Prendiamo l'evento Echi di un'anomalia. Mentre eroi potentissimi erano disorientati, incapaci di comprendere la natura della minaccia, lei è stata fondamentale. Il resoconto dice che è stata coinvolta nell'analisi delle fluttuazioni energetiche, mimando poteri non convenzionali per sentire cosa stava accadendo. E lo stesso resoconto menziona che ha riportato bizzarri effetti collaterali. Non ti sembra un campanello d'allarme questo? Tu parli di analisi. Io vedo una cavia umana che si espone a rischi sconosciuti. Non è una replica pulita e sicura. È un processo che la contamina, la mette a rischio. Quali sono i danni a lungo termine di questi effetti collaterali? Nessuno lo sa. Ma il rischio è insito nel mestiere dell'eroe. Lei si assume un rischio che nessun altro può prendersi per ottenere informazioni che nessun altro può ottenere. Non è solo un'arma, è uno strumento di diagnosi vivente. Mentre l'incudine umana può solo prendere a pugni il problema, lei può capirlo dall'interno. Capirlo dall'interno, a patto che ci sia qualcuno con il potere giusto da copiare nelle vicinanze. E questo è il nocciolo del problema. La sua utilità è totalmente condizionale. In una missione in solitaria o se viene separata dalla squadra in una situazione critica, cosa le resta? Le sue statistiche di base, forza 60, agilità 65, la collocano a malapena nella media. Non è una risorsa strategica, è un peso. La sua efficacia dipende interamente dagli altri e ciò che è dipendente non può essere considerato affidabile. Quella che tu chiami dipendenza, io la chiamo sinergia. Il suo potere è l'essenza stessa del lavoro di squadra. Non può agire da sola, e questo la rende il fulcro perfetto per un team, costringendo tutti a collaborare. E questa sinergia non è solo tattica, è emotiva. E qui torniamo alla questione dell'identità. Quel leggero cambiamento di personalità le permette di entrare in sintonia con i compagni, in un modo quasi istintivo. È il collante empatico della comunità. Un collante che rischia di sciogliersi. Parli di empatia, ma io vedo un'erosione dell'io. E la prova, per quanto possa sembrare ridicola, è proprio in quel dettaglio della sua biografia. La voglia di waffle. Aspetta, stiamo davvero basando un'analisi psicologica su una voglia di dolci? Mi sembra un po' un'esagerazione. Potrebbe essere un semplice tic, un residuo metabolico del potere. Non è un'esagerazione, è un sintomo. Un sintomo terrificante, se ci pensi. Se il potere di un'altra persona può imporre a Eve un desiderio così banale e specifico come la voglia di waffle, significa che il suo controllo sulla propria mente e sul proprio corpo è compromesso. Oggi sono i waffle, domani cosa sarà? Se copiassi i poteri di un nemico crudele, assorbirebbe anche parte della sua crudeltà. Se toccasse qualcuno con una dipendenza, ne erediterebbe l'impulso. Non è empatia questa, è una violazione, una costante colonizzazione della sua psiche da parte di frammenti di altre persone. Il suo io è costantemente sotto assedio. La vedi come una violazione? Io la vedo come un'espansione. Ogni frammento che la colonizza, per usare le tue parole, le apre le porte a un potenziale di crescita illimitato. Pensa agli altri eroi. Sono definiti e quindi limitati da un singolo set di abilità. Capitan Cometa sarà sempre e solo veloce. L'incudine umana sarà sempre e solo forte. L'adattatrice, invece, non ha un tetto. Ogni nuovo alleato, ogni nuovo nemico, espande il suo repertorio. La sua crescita è esponenziale, potenzialmente infinita. Non deve passare anni a padroneggiare una disciplina perché la sua maestria risiede nell'arte stessa dell'adattamento. Ma non sta sviluppando alcuna abilità propria. E questo è il punto cruciale che secondo me ti sfugge. Ogni potere che acquisisce è un prestito a breve termine. Una volta svanito non le lascia alcuna competenza residua. È un ciclo perpetuo di apprendimento e oblio. Non costruisce nulla di permanente. Ma la conoscenza rimane. L'esperienza di aver usato quel potere, di aver pensato in quel modo, quella non svanisce. Ne siamo sicuri? O svanisce anche quella, lasciando solo un'eco confusa? È come leggere il primo capitolo di 1000 libri diversi senza mai finirne uno. La sua crescita non è personale, è un riflesso passeggero della grandezza altrui. È una scorciatoia che a lungo termine le impedisce di diventare padrona del proprio destino. Mentre gli altri affinano le loro abilità uniche, lei rimane una tabula rasa, in attesa del prossimo tocco per poter essere di nuovo definita da qualcun altro. È un'eterna dilettante in tutto e maestra del nulla. Non sono d'accordo. La sua maestria è l'adattamento. È una meta-abilità più preziosa di qualsiasi singolo potere. Lei non ha bisogno di essere la migliore in qualcosa, perché può diventare brava abbastanza in qualsiasi cosa sia necessaria in quel preciso momento. E in una crisi, brava abbastanza è spesso tutto ciò che serve. Brava abbastanza fino a quando il tempo non scade, lasciandola indifesa. E questo ci riporta al problema iniziale. La sua intera esistenza come eroina è un castello di carte costruito sulla grandezza degli altri. È una scorciatoia che le nega la fatica e quindi la soddisfazione di sviluppare qualcosa di veramente suo. Quindi, per riassumere il mio pensiero, L'abilità dell'adattatrice è la massima espressione di flessibilità strategica. Quella che viene vista come una crisi d'identità è in realtà la fonte di una comprensione unica e di una sinergia senza pari. Con i suoi alleati. La chiamano mimo di poteri, ma la sua vera forza, quella che nessuno può replicare, è la sua ineguagliabile capacità di diventare in qualsiasi momento la risposta esatta a qualsiasi crisi. E per me, alla fine, la sua apparente versatilità maschera una tragica vacuità. La sua dipendenza dagli altri e la clessidra dei 10 minuti che pende costantemente sulla sua testa la rendono un'eroina la cui efficacia è sempre precaria, sempre in prestito. La crisi di identità non è un effetto collaterale, è il prezzo devastante di un potere che le toglie molto più di quanto le dia, condannandola a essere un'eco perpetua degli altri, senza mai trovare una voce propria. La figura dell'adattatrice, e credo siamo d'accordo su questo, solleva una questione fondamentale. Cosa definisce veramente un eroe? La padronanza assoluta di un'abilità, affinata per tutta la vita, o la capacità di incarnare tutte le abilità possibili, anche solo per un istante? Il suo ruolo in eventi cruciali per Havenwood ne dimostra l'innegabile importanza. Giusto. Eppure il paradosso della sua esistenza, un'identità costruita su frammenti di identità prese in prestito, rimane un dilemma affascinante e irrisolto. E questo ci suggerisce che c'è ancora molto da comprendere su di lei, sulla vera natura del suo potere e, soprattutto, sul vero costo del suo dono.